Radio 105. Proud to be different. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da The Jekyll. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Sono le 22, inizia Zoo Compilation. Attenzione. Attenzione, in questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Lo sento nascere, lo sento crescere in me, è come un brivido che non puoi comprendere. Hey, so fun. E siamo arrivati al momento in cui vi facciamo riascoltare le scenette più belle di questa settimana. Ma essendo anche la settimana di San Jimmy, vi faremo riascoltare tutte le 10 canzoni dei Big in gara. Vi ricordo che per votare la vostra preferita bisogna andare sul sito zoo.105.net, iscriversi e cliccare semplicemente su Vota. Detto questo, ascoltiamo la prima scenetta di oggi. Raccontiamo una serie di fattacci che ognuno di noi ha compiuto nello zoo attraverso la voce del grandissimo BG. Ha cambiato nome. Pino Master Flash. Ah, che pensavo avesse cambiato nome come Mohamed Ali. No, stavo per avere un ictus, ma tranquillo. C'è Pino che sputano tutti quanti, le storie più roganti. Pino, preparati ai racconti più scioccanti, metti le mani avanti, è tornato per te. Oggi raccontiamo un'altra storia, in cima alla vergogna per l'amore. Se non fai cazzate ci denoia, c'è Pino che non so senza pudore. Eccomi, sono tornato. Sono il numero uno dei DJ e dei vocalist. Sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a David Guetta a mettere i dischi. Pensate che prima di conoscere me vendeva le baguette ed era anche un po' friu-friu. Armin Van Buren era un povero coglione. Poi ha conosciuto me e gli ho insegnato il mestiere del DJ. Alzate le mani al cielo. Pensate che una volta al mio corso è venuto anche Fabio Alisei. Ma come potrete notare è rimasta una merda. Non ha imparato niente. Questa crociata. Mai, perché Fabio Alisei non è dei nostri. No. Ma a proposito, sono qui non solo per insegnarvi che cos'è la tendenza, che cos'è la musica, che cos'è il sound. Sono qui anche per raccontarvi delle storie purtroppo realmente accadute ad alcuni elementi del programma Lo Zoo di 105. E allora che inizi lo sputtanamiento! Base, grazie! Se anche tu imprechi nelle scale del palazzo contro la stronza di merda che non ha chiuso la porta dell'ascensore e ti costringe a salire a piedi, e ogni gradino maledici la stronza di merda finché arrivi al quinto piano e incontri la stronza di merda e scopri che è la professoressa d'inglese di tuo figlio che ti dice: signor Borghini, la stronza di merda sono io, ma non si preoccupi che sto scendendo. Bella giornata. Fabio Alisei, in questo caso, sei dei nostri. Se anche tu inizi una gara di scorregge con tuo suocero, quello con il monodente, dopo aver mangiato un mega piatto di pasta e fagioli, e spingi così tanto da cagarti addosso, e lui a furia di ridere si sente male e finisce in ospedale. Quanti anni ha tuo suocero Paolo? 6.000. Porca troia, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei seduto sul cesso a fare la tua bella caccona e ti dimentichi di aver lasciato la pentola sul fuoco e sentendo uno strano rumore che proviene dalla cucina ti alzi di scatto e corri in cucina tutto nudo, ma non ti accorgi di che avevi uno stronzo a metà che si adagia sul tappeto della cucina. Ma proprio in quel momento entra in casa la tua donna delle pulizie messicana, che ha sempre pensato che fossi strano, ma adesso ne ha la certezza. Chili. Mamma mia, che schifo. Sei come Mazzoli, cagone di merda. Sei dei nostri. Se anche tu esci a cena con un gruppo di persone mai viste prima e per cercare di fare il simpatico te ne esci con una bella barzelletta oscena sugli ebrei e quando finisci di raccontarla nessuno ride e solo lì scopri che tua moglie si era leggermente dimenticata di dirti che erano tutti israeliani. Che figura di merda. Bravo Mazzoli, e siamo a due. sei dei nostri. E allora, visto che ci siamo, raccontiamo anche la terza, Mazzolino? Anche no. No. Se anche tu racconti a tutti i tuoi colleghi che hai perso all'asta per comprarti la tanto amata DeLorean, ma in realtà hai dimenticato un particolare, ovvero che i due che avevano fatto le offerte più alte si sono ritirati e quindi sei rimasto quello con l'offerta più alta e adesso devi comprarla, ma non hai né i soldi né il coraggio di dire a tua moglie che non potrai rifare il tetto di casa, ma potrete dormire tranquillamente in una bella DeLorean del 1981 che è una scatola di tonno fatta col buco del culo di qualche coglione dell'est Europa. Bravo Mazzoli, ti vedo molto bene, questo giro non sei dei nostri. Amici, devo scappare, ma se anche voi avete delle regole da raccontarmi, andate sulla pagina di Marco Mazzoli su Instagram e mandategliele in privato. Sarò più che contento di leggerle per voi. Ma ora, per dimostrarvi la mia grande potenza, ho portato qua in studio due batterie di camion che attaccherò ai miei capezzoli e alle mie palle mostruose. Attiverò la corrente e vedrete che non mi succederà niente, perché Pino Master Flash è invincibile. Ecco. Siamo pronti, tecnico? Non lo so, io non lo farei, Bene, ho attaccato gli spinotti ai capezzoli e ai coglioni. Attiva la corrente! Ora! Ogni volta. Pino? Ogni volta. Pino? Pino? Pino? Pino? Pino? Dato. Il tonfo finale meraviglioso. Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. Ha fatto breccia nel cuore degli italiani con un semplice paio di scarpe da tennis. Ha raccontato il dramma di chiamarsi Umberto, mantenendo nascosta la sua identità, probabilmente per problemi col fisco. Dopo anni di latitanza, ritorna su questo palco con un racconto autobiografico a tema caraibico. Di Mahatma Ganja, ascoltiamo adesso Big Bamboo. Di Mahatma Ganja, ascoltiamo adesso Big Bamboo. Dirige il maestro Ciula Ciula, canta Anonimo. Sono andato alla Giamaica con le migliori intenzioni di starvene al sole a bere un drink e guardare i femminoni. Con la mia fidanzata, tutta bella profumata, sulla spiaggia una canna che l'abbiamo fumata e la borsa me l'hanno rubata. Siamo stati al ristorante, mi hanno detto rovinato. Me ne vado sulla spiaggia, tutto solo e scassolato, ed incontro una bella tetona. Come sono fortunato. Ci cerchiamo un bel giaciglio a due passi dallo scoglio. Le si denude e la mutanda viene giù, eppure lei c'è il Big Bamboo. Doveva essere una vacanza magica, ma proprio a me è toccato il trans brasiliano in Giamaica. Se volete votare questa canzone, andate su zoo.105.net E adesso vi facciamo riascoltare un'altra scenetta trasmessa dal programma che non piace, lo Zoo di 105. Vai, mettiamo vai, Molo Provo? Lo metto? Sì, Molo Provo, andiamo, vai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo sul mio nuovo canale Twitch, che oggi può andare la partnership con due canali molto potenti. Sto parlando, come tutti già saprete, del Book del Tafano e Vomito Pordenone 80, con i quali stiamo facendo queste video reaction alle telecamere dell'autostrada. Cazzo, una roba esilerante, cioè passano le macchine, devi indovinare il modello. Grazie, suspense. Che mangia Steven King, guardate questo clip, guardate. Fiat Tipo. Sbagliato, era una Citroen. Cazzo, mi fai morire, Tafano. Aspetta, ne arrivo un altro. No. Lancia Y. Sbagliato, era una Golf. Porca zozza. Oh, mi fa male la pancia, Tafano. Ma come cazzo ti vengono certe cose? Cazzo, che forte. Vabbè ragazzi, non voglio spoilerare troppo della puntata di stasera, quindi andiamo a scoprire un nuovo gioco, vai! E il Molo Prof di oggi è dedicato a un titolo che farà tremare la Epic Games, un FPS sparatut vietnamita che si intitola, vediamo un po', Fortnite. Cos'è? No, Fortnite. Fortnite. La parte scorreggia. No, diciamo che il titolo assomiglia un po' tanto a quello della Epic, a Fortnite. Sì. Ma sicuramente è fatta apposta, ragazzi, è scam, capite? Perché il mondo del videogioco è una giungla e io modestamente sono Tarzan. Oh, oh, oh, oh. Ehi, Terone! Gatto finito di gridare! Guarda che lo so che ti hai fatto il wifi, stronzo! Ma chiedo scusa, signor Trevisan, mo abbassi il volume! Sto boomer di merda. Io mi viazio. Che delusio. Vabbè, giochiamo, va. Eccoci dentro la schermata principale di Fortnite. Vediamo cosa dice. Per accedere, tira il dit con R3. Schiacciamo R3. Ma fa tra la pernacchietta, ma fa. Riproviamo. Ma è un'altra pernacchietta. Sarà la scheda audio che è imballata. Riavviamo. Gioco, e rieccoci dentro Fortnite. Andiamo a scegliere il nostro personaggio, che ovviamente all'inizio è molto basic, diciamo. Quindi sarà, diciamo, sprovvisto di tutti gli accessori. Vediamo. E infatti una riga con due gambe, due braccia e un cerchio al posto della testa. Ma che cazzo sta giocando? L'imbicchiato. Che delusio. Che prossima zio. Vabbè, andiamo avanti, va. Scegliamo la modalità Battle Royale per combattere contro gli altri avversari casuali. Eccoci infatti nell'area di gioco. Vediamo mo cosa possiamo fare. Allora, R1. Ha fatto il pirito. Proviamo L1. Un altro pirito. Cerchio. Amamata. Quadrato. Assorta. Triangolo. Apatata. Quadrato. Ah, che lo f***o c'è merda di frate. C'è tutto scurreggiato, so. Ma c'è cazzo, sei mondiale di meteorismo. Ecco però laggiù in furia la battaglia. Senti proprio i suoni della guerra. No, che cazzo, c'è cazzo, è un'epidemia. Aspetta che mi nascondo, va. E infatti sta arrivando un altro player. Questo è il combro dall'attrezzatura. Anzi, ma ha visto. Ma ha visto. Vediamo che cosa fa. Ma c'è cazzo è la score di Trieste, l'uragan Cacchin. E questo mi ha ammazzato con la scurreggio, mi ha ammazzato. C'è cazzo è l'incredibile Cook. Ma che trivialità, che delusione. Torniamo al menu principale, va. Bene, abbiamo capito che per vincere a Fortnite bisogna comprare i pacchetti aggiuntivi. Sì. 4,99€ potete acquistare i booster per scurreggiare più forte, che sono ad esempio scatte di fagioli, lenticchie, carciofi. E con questi variano la vostra scorreggia dal livello 1, sentite, al livello 5. No. C'è cazzo c'ho? La banda dei pompieri nel culo. Che delusione. Che approssimazione. Un'altra cosa che potete fare con i pacchetti è personalizzare i vostri piriti con i personaggi dell'universo Star Wars. E questa è una cosa figa. Vediamo. Beh. C'è Chewbacca. Poi sta Darth Vader. Eppure R2D2. Che bestemmia, dai. Che mancanza di rispetto per Cicciucas, dai. Niente più, sì. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata andremo a scoprire il nuovo titolo Nintendo che si chiama Super Mario Draghi. Il platform che schiacci il tasto play, aspetti un mese e non succede un cazzo. Ciao! Madonna, bellissimo! Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. È stato votato l'uomo più sexy del mondo da una giuria internazionale composta da 1500 clitoridi. I magazine mondiali lo hanno definito il Buddha in forma, il padre Teresa di Calcutta e l'Oprah Winfrey con il pene. Ha scritto la canzone per San Jimmy con la mano sinistra perché con la destra stava trattenendo la lava dell'Etna. Di Stephen King e William Shakespeare ascoltiamo adesso Sono tornato. Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio. Canta Herbert Ballerina. Io vi guardo dall'alto, voi peccatori, pentitevi. Ridate i pani a chi l'avete rubato, blasfemi, continuate a nominarmi invano. La volgarità, la donna, i siti porni, le vostre perversioni. Ero i nomadi, infetti nell'anima, sono venuto a dirvi che... votare questa canzone e vedere anche il video, andate su zoo.105.net. Ricordate che per votare la vostra preferita è necessario iscriversi nella sezione San Jimmy 2021. Sei entrato nel tunnel dello zoo. Sei fossero. Vietato uscire. Friday, then Saturday, Sunday, what? Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105. Ulisse, il piacere della scopata. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano ed è proprio di questo centro mondiale di moda, Coca e gente con il grano che evade il fisco, che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica. E in età più moderna, con i mitici anni Ottanta, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building. Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne ed è piena di terroni. I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla. Infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i quattro meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiavandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali. Ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. E i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono quattro stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco. Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché impare Pippo c'ha la bonza spettacolare. Ma no! Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? L'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e grazie alle palafitte sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchione di Leonardo da Vinci progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio. Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartoggiaro e Bruzzano. E l'imbiate. L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi? La Milano degli anni 70-80 dove era tutto shopping e fighe anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi. E Fedez. E Fedez. Quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti, prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Ma non è vero! Ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il macete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io... chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro. Tu vuoi della sale? No, no, io voglio un bel bocchino. So che spoda 50 euro dopo massaggio. No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina. No. Un accomodale pelonotto con capelli. Ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... ah, cazzo che idrovoro, mi ha aspirato una palla. Idrovoro. Dove sbatto i capelli? Scusa. Non me la ricordavo così Milano. La merda. Il piacere della scopata. Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. Ha sfruttato il palco di San Jimmy per smarchettare utensili di ogni sorta e provenienza. Può vantare 10 partecipazioni e ben 2 vittorie del festival con noi la Zaffira e il Gelosone. Torna a far ballare il teatro Ari Strunz con un brano dichiaratamente paraculo. Di Moroni Aperitivo, Mano Mancina Borse, Che Gusto prodotti pugliesi, Capoeira abbigliamento, Candy Pop gioielli Porta Fortuna e Weird Time prodotti per la casa, ascoltiamo adesso Pompa. Dirige l'orchestra il dottor Gavoni, medico osteopata. Cantano Pippo Palmieri e Izio. Ed eccomi qui, con la crisi del produttore musicale. Non sapevo proprio cosa fare. Avevo pensato al disco della Marchetta ancora, però poi ho detto, ma sì, ma l'hai già fatto tanti anni fa. Ho ripensato, magari dedico ancora una canzone a una regione, magari alla Sardegna. Ma no, ma l'hai fatto l'anno scorso. Sfruttare ancora i miei figli? No. Ci vorrebbe proprio una canzone diversa, una canzone che... Ho pensato una cosa, ho detto, un disco senza un balletto, che disco è? E allora ho creato una coreografia, braccio sinistro teso in avanti e mano che forma un pugno. Piega il braccio a 90 gradi verso la tua bocca e la mano destra che va avanti e indietro. E si balla il disco. Quest'anno vinciamo San Jimmy. Pompo la tua donna, faccio bodybuilding. Pensieri felici, volo come trilli. Pompa finché salta le meningi. Taglio e beat, spinge tutti. Pilotiamo questo suono come un Gundam. Fa tremare anche le palme della giungla. Si pompa il suono perché gusta. Pompo biciclette dal 95. Vado al benzinaio, scelgo quella diesel. Dobbiamo pompare perché questo spinge. Chiedi quanto pompo, sono lì. Ogni volta a fare fette di rana. È il disco dell'anno perché... Pompa. Se volete votare questa canzone, andate su zoo.105.net. E adesso vi facciamo riascoltare un'altra scenetta trasmessa dal programma che non piace, lo Zoo di 105. Comunque ragazzi, parliamo di robe serie, perché purtroppo la crisi ha colpito tutti, ricchi e poveri, a parte alcuni ricchissimi che sono diventati ancora più ricchi. E lì c'è da porsi un po' di domandine, ma non stiamo a entrare in questi discorsi perché poi diventiamo tristi. Ci sono molti DJ che purtroppo non lavorano più, le discoteche sono chiuse. Sono lì sui social. Alcuni, quelli più intelligenti, quelli diciamo più capaci, si sono reinventati, tipo Christian Marchi. Christian Marchi è diventato un marchio... Una puttana del web. Christian Market, è una grossa puttanella di Instagram, è diventata una troietta pelata. Christian Marchi è in grado di venderti qualsiasi cosa ed è credibile, tra l'altro. Ma fa queste televendite sulla sua pagina. Gli altri Instagram, invece, col banchettino su Facebook o su Twitch a fare le dirette mentre suonano da soli, un po' meno. Lui invece vende Land Rover, Range Rover, felpe, maglie. Io lo amo, bello, intraprendente. È sempre la stessa persona, tra l'altro. È miratissimo come marketing. Abbiamo preso spunto da quest'uomo e abbiamo creato questo appuntamento che si chiama Christian e Marco, per ricordare questo grande artista che è riuscito a reinventarsi un'altra volta. Bravo Christian Marco. Bravo Christian. Bravo. 2021. Il mondo è cambiato e per ora non c'è un rimedio. Interi settori sono al collasso. Le discoteche sono morte e insieme a loro anche i DJ. E il pubblico è rimasto chiuso in casa. Ma i DJ per sopravvivere sono disposti a tutto, come chiamare la gente a casa per intrattenerla. Perché loro poi? Sono Christian e Marco. Pronto? Pronto, ciao, siamo Christian e Marco. Sei pronta a cantare con noi? Vai! Che confusione. Perché? No. Vai, canta insieme a noi, vai! Che confusione! Sulle mani! Sarà perché ti amo! Che ti amo! No! Signora! Pronto? Ehi, pronto? Siamo Christian e Marco. Ciao, come stai? Sei pronto a ballare con noi? Dai, su. Balla con tua sorella. Su con le mani e canta. Pronto? Ciao, come stai? Siamo Christian e Marco, due DJ da casa che mettono la musica. Sei pronto a ballare e cantare con noi? Vai, sulle mani, sulle mani. Confusione. Sarà perché? Faustino. Ti amo. Bravissimo, e poi? È un'emozione che cresce piano piano. Vai. Stringimi forte. Batti le mani a tempo. Dai, su. Su con le mani. Vai, vai. Perché ti amo. Energia, ti senti carico? Energia, fai culo! Nonno Faustino numero uno. Ehi. Ciao, siamo Christian e Marco, i DJ da casa. Aia. Lasciatemi cantare. Aia. Dai, sulle mani. Mettiti sul divano. Fatti mettere in culo, ne bastarda la puttana. Lasciami bestemmiare. Vai, vai. No, lasciami cantare. Vai ancora. Pronto? Fatti mettere in culo. Cantare, cantando. Vai sulle mani. Con la chitarra in mano, lasciatemi portonare un pinto troppo piano piano. Ma vai figa detto mare. Ma vai figa detto mare. Che troie puttane no, no, vanno slondrona troppo. Insomma, va a farti mettere in culo. Con vai insieme, insieme. No. Pronto? Vai! Canta anche questa insieme a noi! Nella Boido. Prossima puntata. Bastardo! Bastardo! Christian e Marco. Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. L'anno scorso ha dominato il Festival di San Jimmy con la hit Ho sposato un terrore. Quest'anno ci riprova con un pezzo intimista che va dritto al cuore della tradizione italiana, come il calcio e i cazzi degli altri. Di Cracco, Barbieri, Rana, ascoltiamo adesso La Lasagna. Dirige il maestro Sochmel. Torna al Festival di San Jimmy Stefanina. Questa canzone e vedere anche il video, andate su zoo.105.net. Ricordate che per votare la vostra preferita è necessario iscriversi nella sezione San Jimmy 2021. Phone cause I can't get enough, and I got work in the morning, early, early in the morning, but who needs sleep when we're living it up? Oh, and why'd I gotta do this the hard way? My body wants to be in your arms, baby, something I'll regret in the morning, but I just can't resist when you call me. Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi. Panzoni e sofà, i terziari della comodità. I terziari della produzione in serie di divani della pregiata ditta Panzoni si sono messi all'opera e ora, oltre alla normale produzione di divani palesemente scadenti, ha anche istituito un servizio di compagnia a pagamento sfruttando le debolezze sessuali di alcuni dipendenti palesemente predisposti alla promiscuità sessuale. Perché? Alcuni studi commissionati dalla Panzoni e Sofà, i terziari della comodità, per scaricare un po' di tasse hanno dimostrato che farselo succhiare da seduti no. è più comodo. Se stai pensando di cambiare il divano di casa tua o semplicemente devi arredare da zero un nuovo appartamento, vieni da Panzoni e Sofà e avrai in cambio anche la parziale assoluzione dei tuoi peccati attraverso una cerimonia simil religiosa impartita da un nostro finto cardinale. Dopo alcune denunce penali per truffa e appropriazione indebita, il commendator Panzoni ha deciso di trasferire la sede legale della Panzoni e Sofà, i terziari della comodità, presso dei paradisi fiscali. Con questo comunicato ci teniamo ad avvisare la nostra prestigiosa clientela che da oggi potete baciarcelo in punta. Come no? Ma veniamo alla collezione 2021 di Panzoni e Sofà, i terziari della comodità. Divano Iron Man, un esemplare pazzesco della nostra collezione, interamente realizzato attraverso la presso fusione delle vecchie vetture appartenute al personale dell'azienda Panzoni, che compone un divano interamente in alluminio e ferro, un design audace e che sicuramente donerà al vostro appartamento l'aspetto davvero duro, a cui tenete tanto. Assieme all'acquisto verranno ceduti due pitbull addestrati allo sbrano e una pistola con i numeri a Brasi. Perché? Euro 800. Divano Van Helsing. Eccezionale seduta di 3 metri, costellata di falli di frassino in posizione verticale. Ottimale per le famiglie e gli amici che non disdegnano un paletto nel culo durante i momenti di aggregazione, magari travestiti da frocio vampiri, i famosi vampiri gay. Euro 4000. Dracula. Divano Cacca-pupù. Il mini divano per bambini a forma di feci, morbido e giocoso per arredare le camerette dei vostri pulcini. E grazie ad un trattamento particolare brevettato dal signor Panzoni, il divano Cacca-pupù esalerà anche un fetore pungente di cacca spruzzona. Buono! 300. Grazie, bambini. Divano Calacelo Tutto, un vero e proprio oggetto di culto fra i nostri fortunati clienti del Sud Italia. Il primo divano a pressa che, oltre ad avere una comoda seduta oblunga, fornisce, grazie ad un sistema elettrico, la possibilità di chiudersi a panino pressa mentre, per usare i termini adeguati, ce lo stai calando a pozzo in fica, aumentando la forza di affondo penetrativa della posizione del missionario. Euro 3000. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e se sei uno zombie avrai diritto alla visita notturna su prenotazione. I nostri incaricati specializzati in trattative con esseri infernali avranno il piacere di mostrarti il nostro campionario e offrirti un cervello come rinfresco. Panzoni e Sofà, i terziari della comodità. Sozza stronzoni, sono il Panzoni. Buonasera. Non me ne frega un cazzo dello spot pubblicitario. Mi hanno chiavato il Mercedes in garage. Aia. Se vi prendo vi stacco i coglioni a morsi. Come? Panzoni e Sofà, i terziari della comodità. Diffida dagli artigiani, hanno la partita IVA. I terziari hanno un padrone. E da oggi siamo anche dentro il parco dei drogati di Rogoredo. Posto a meno. Ma il signor Panzoni non è proprio adattissimo, cioè perché è proprio all'interno dello spot. Si vede che voleva divulgarlo al maggior numero di persone. Ci tiene, no? gli hanno chiamato il Mercedes. C'è chi disegna i cerchi. Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. Sono alla loro prima partecipazione al Festival di San Jimmy e per l'occasione si sono tinti i capelli con lo stesso colore del culo dei babuini. Presentano una canzone incentrata sui temi del complottismo e della pseudoscienza.

State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta. Ci colleghiamo con la Serenata e poi attenzione, perché c'è un'altra nuova proposta all'interno del Festival di San Jimmy. La Serenata dello Zoo di 105. Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande figlio di puttana. Ti butto nella monnezza, amore mio. Ti butto nella monnezza, amore mio. Sderenata rap, sderenata rap. Ti butto dalla finestra, amore mio. Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande figlio di puttana. Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata per la mia fidanzata Adelaide. La stronza, dopo esserci fidanzati, non mi fa più i pompini. Aiutami Umbriake. È giusto così. Pronto, parlo con Adelaide? Sì. Ciao Adelaide, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giacomo ci ha inviato un'email perché voleva che ti dedicassi una sderenata. Ah, ok. La vuoi sentire? Sì. Dai, ora te la faccio. Vai! Adelaide, sei astuta così come sei gnocca. Ti sei fidanzata e hai detto basta a certi lavori di bocca. Adelaide, mi sembra che il tuo sia un progetto. C'hai le paranoie tue. O sarà lui che zozzosetto, che non si lava più, non si deterge più. Ma nel caso in cui non sia così, lui te la lecca, però tu non hai più voglia di fare la fellazio. Fellazio, come nei giorni che furono i primi, che eri tutta limoni e pompini. Fellazio, fellazio, non assaggi l'albicocca e lui rimane con la ed immagina se lui poi va a puttane per rimediare una pompa e paga. Adelaide, con le tue attitudini laide, fallo contento e di bocca giocalo un po'. Bellissimo, meraviglioso. Io non ho parole. Perché sei già con la bocca piena? Mi vendicherò, io mi vendicherò. Ti vendicherò, questo li vuoi dire a Giacomo? Questo li vuoi dire a Giacomo, che ti vendicherà? Sì, sì, questo, gli sì. Giacomo, stai attento perché mi vendicherò. Ah, proprio la cattiveria. Ma tu devi fare una pompina, lui ci ha detto una bugia. Oh. Sta dicendo una bugia. Sta dicendo una bugia infamone. Vabbè, allora mando un email che poi gli facciamo una serenata pure a lui. Oh, va benissimo. Grazie. Grazie a te, ti mando grazie un bacione. Di cosa? Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie. Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. Vengono dal ghetto di Miami Beach per diffondere il verbo della trap vista con gli occhi del boomer. Il loro brano racconta il disagio di un mondo basato sulle apparenze e sugli status symbol, anche se nel testo non si capisce. Di Kubo e ancora, ascoltiamo adesso Lambo a Nolo. Dirige il maestro Feci di Barbone. Cantano MC Merda, Miss Culona e DJ Zucker. MC Merda, Miss Culona, DJ Zucker. Boom, bang, in onda da 20 anni. On, air, entro nel locale e faccio land, plan. Quando ci sei tu la gente guarda e dice oh, ma quello chi è? Se c'è un motivo perché sei un fallito, io te lo spiego ancora, non hai capito. Ti pensi figo, una rockstar, un divo. ma non sei Andreotti, sei avido. Ivo, ti piace fare il grosso, so farlo anch'io, ma qui non c'è il web, comando io. Sono il numero uno dei trapper, non ho bisogno dei tuoi fake follower. Ti guardo dall'alto come fossi Messner, ti porto a spasso, prêt-à-porter. Che fai con quelle orecchie basse, sembri un cocker. Bevo il tuo successo tipo cocktail. Non count, stramazzi al suolo, bro, ti faccio il culo con la mia lambanolo. Sembro quasi quasi la Dark Polo, Polo, Polo Gang. Hai cazzi in faccia che fanno gang bang, che fanno gang bang. Sfreccio tra le strade di Miami, di la verità che tu mi ami. No scusa, questo era pur tu ma mi. Che fai adesso, tu mi chiami pa di? Non mi fotte un cazzo di ciò che possiedi, vado così in fretta che tu manco mi vedi. Poi finito il gas, rimani a piedi. Ora copi mentre guardi wiki, vedi? Bling bling, hai oro e corone di sua maestà. Ti sei mai chiesto che rumore fa la dignità? Dici in giro che sei un MC, ma sembri un VC. Dalla tua fanbase, l'età è 12. Racconti storie che non hai mai vissuto. Ti presenti in giro con la testa di sugo. Parli del ghetto, del passato tosto. Tu è una gangsta, ma è quella del bosco. Yo, baby. No caos, stramazzi al suolo. Però ti faccio il culo con la mia lambanolo. Parli del ghetto, del passato tosto. La gang sì, ma è quella del bosco. Cartone animato tipo Disney. Ti credi Rocky ma sembri Britney. Hai sul costume ma non è un cosplay. Sei un videogioco senza tasto play. Knock out, stramazzi al suolo. Bro ti faccio il culo con la mia Lambo Anolo. Sembro quasi quasi la Dark Polo, Polo Gang, ai cazzi in faccia che fanno gang bang. No caos, stramazzi al suolo. Bro ti faccio il culo con la mia lambanolo. Sembro quasi quasi la Dark Polo, Polo, Polo Gang, ai cazzi in faccia che fanno gang bang, che fanno gang bang. Adesso è chiuso il discorso, bro. Vai dalla mamma, bamboccio, perché non c'è storia. Flex a zio. Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105. Ci colleghiamo con Ludofica Pagani, andiamo, vai, vai. Che cazzo. Radio 105, è l'ora di comprare i miei nuovi trucchi. Ludo, non devi fare pubblicità le tue cose in radio. Mo adesso chi sei tu per sapere queste robe? Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani. Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM. Ah, raga, come va? Io sono Ludofica Pagani, questa sì. È Radio 105, state ascoltando sì. Casa Ludofica Pagani. Basta. Brava Ludo! Come va? Ludo, questo l'hai già detto! Comprate la mia nuova linea di trucchi! No, anche questo l'hai già detto, non si può dire! Vai col disco, Gigi Bottoniere, signor Bottoniere, Gigi! Non hai la playlist? Guarda la playlist, leggi bene il titolo e andiamo! Aspetta, che devo girare. Da questa parte? No, dall'altra! Ah, questa parte di qua? Ah, dove ci sono scritte le parole! Vai, Ludofica, prendi l'intro di questo disco! Life is one, Ludofica Pagani! Ma prego! Problemi di cuore, così io vi posso aiutare a sistemarli, che sono molto brava. Wow, bella idea Ludo. Nuova. Grazie. Allora Ludo, senza il microfono, non schiacciare il tasto. Ok, allora Dicevo, mi ha scritto Samuele che dice: ciao. Gigi, perché ti arrabbi? Che succede? Come che succede? Non te ne accorgi? Schiacci il tasto on off e spegni il microfono. Se fai così, hai capito? Devi stare attento. Gigi, ti sentivo intervalli. Un po' sì, un po' no. Quello che ascolta tutta la radio quando sei noto a te. Mi ha scritto Samuele, dicevo, se smetti di interrompere, che dice: ciao Ludofica, sono stato un cretino e ho tradito la mia fidanzata Martina, ma non glielo voglio dire perché è stata una svista. Io l'amo tantissimo, puoi chiamarla e dirle che l'amo più della mia vita? Sarebbe una sorpresa bellissima, grazie. Ti aiuto io, Samuele? Oh, no. Ok, Gigi, chiama Martina. Mi serve il numero 338. Non in onda. Non puoi dare in onda. Non in onda. Pronto? Ciao Martina, sono Ludofica Pagani, come va? Bene, grazie Ludofica, ma che sorpresa! Allora, ti chiamo per conto del tuo fidanzato Samuele. Praticamente ecco, vuole che ti dica che ti ama più della sua vita. Oh, ma è dolcissimo! Basta. Sì, perché praticamente, cara Martina, lui ti ha tradita, ma non voleva dirtelo. E allora mi ha chiesto di far sta roba qua. Ludo, non dovevi dirlo! Ma come? Sì, però ti ama molto, che carino, adoro. In che senso mi ha tradita? Non so, Martina, sarà andata con un'altra, due, tre, Quel bastardo maledetto traditore. Dai Martina, saluta Samuele che sicuramente ci sta ascoltando. Ma vaffanculo Samuele, te quello. Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. Arrivano al Festival di San Jimmy grazie al successo del loro programma Radio 105 Strappo, almeno questo è quello che gli ha fatto credere il loro agente. Sono un trio trap che canta l'amore ai tempi del corona, o almeno questo è quello che vuole farci credere il loro agente. Di Flexatano, Eschere, ascoltiamo adesso Scusami. Dirige il maestro Bro. Cantano Bibacisti e Fausto D, featuring Moco Vileda. Chicos Ness, dalle case Popo, Milano City Gang, Fausto D. Bibi, For L, Flexo, in hotel. Gelato e cioccolato, dolce un po' malato, Bibi, sei tu che m'hai lasciato, Bibi, dici che non t'è scattato, Bibi, ma non resto nel passato, Bibi, 4:20 con gli amici, Bibi, bisogna essere felici, per adesso evito ogni tua story su TikTok. Oh no no no no, il mio amico è Massimo. Scusami, se per adesso va così, se mico solo con ice cream, baby. Chicos Ness. Scusami, baby. Scusami, baby. You did. Se per adesso va così, se mico solo con ice cream. I did. Gelato un po' scoppiato, dolce un po' cariato, Bibi, però non mi hai limonato, Bibi, e ora sono costipato, Bibi, sei la mia spina nel costato, 4:20 con gli amici, tanto poi ti contraddici, sono come Serpico, e tu sei la mia Chicos Ness. Scusami, baby. I drip. Scus, Se volete votare questa canzone, andate su zoo.105.net. E adesso vi facciamo riascoltare un'altra scenetta trasmessa dal programma che non piace, lo Zoo di 105. Alberto Sventura ci ha lasciato questa compilation, il meglio dell'anno, del suo programma che si chiama Il Disco Retto. Sentiamola, prego, per forza, vai. La più richiesta. La più richiesta. La più desiderata. La più attesa di sempre. Finalmente è uscita la Disco Retto Mail Compilation. Come godrei, aia, con in mano i tuoi zebedei. Sì, ma dai, non va bene. Disco Retto Mail Compilation. Certe notti che hai esagerato, il culo spanato non sistemi più. Quelle notti che vai all'ospedale e gridi maiale. No, ma Malberto. Tutte le migliori mail musicali trasmesse dall'unico, vero, sentimentale e per niente volgare programma radiofonico dedicato all'amore. Frigidità non ti permette di comprendere quanto sia bello farsi sbattere da un africano del Ghana. Con dolci ballate per tutta la famiglia come vi sorpresi che eravate aggrovigliati tu e lui, poi di colpo le mie mani sul mio cazzo io posai. È cresciuto proprio in fretta il bastone Super Hyper Compilation, una romantica sequenza musicale per accompagnarvi nei momenti più romantici della vostra giornata. Formaggia, forse me lo dovrei lavare, pulire poi disinfettare, sì, per fermare questo odore di taleggio, per togliere la ricotta dall'affare, lo dovrei sciacquare. Sarebbe il caso, sì. Sciacqualo. Sciacqualo. Sciacqualo. Sciacqualo. Disco Retto Mail Compilation. Io ti pompo fino a maggio. Io ti pompo fino a maggio. Che stasera io ti scopo anche se sa un po' di formaggio. È una costante. Già. Poi ti inculo sopra una bellissima peccata. Disco Retto Mail Compilation. Che poesia, ah, sì, quanto amore, quanto sentimento, ragazzi. Sì, c'è una costante casearia, Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. Vengono dalla lontana Corea come le camicie senza collo e i cellulari di quelli che non possono permettersi un iPhone. Sono 4 ragazzi giovani con la faccia pulita ma i genitali molto sporchi per via dell'intensa attività sessuale. Nel loro brano, in lingua coreana, raccontano tutti i disagi di un anno di pandemia. Diabelli in usciacabratta, ascoltiamo adesso Stugatsu de Viru. Dirige il maestro Gepen Sumi. Cantano i CTS. A zona rossa che diventa arancione, e da Natale ho fatto 30 tamponi. E sul quotidian come cazzo stan, han detto che faranno un altro lockdown. Bandera chiusa han detto tutti di aprile, quando era aperto han detto basta con sci. Mascherina sì, mascherina no, e tanti soldi li fa solo Amazon. E non saper nature sarà, se sciorte solo per far pisciare il can. Se papi già il caffè di un tambar, ma la scuola fa ancora la da. Se non sei in alcune balli, ma a fa sei. Senza festival. Manco in palestra ti fa andare e la scuola fa ancora la da. Volete votare questa canzone e vedere anche il video? Andate su zoo.105.net. Ricordate che per votare la vostra preferita è necessario iscriversi nella sezione San Jimmy 2021. Mi dicevano dai, lo suono di 105 sponda, ci pensi mai? Non c'è fine all'ignoranza, è formidabile. C'è anche il leone da lassù, rimane il capo per sempre, inarrivabile. La la la la la la la la la la la la la. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing this. Ain't this ain't another wasted love. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing this. Ain't this ain't another wasted love. Se volete votare questa canzone, andate su zoo.105.net. E adesso vi facciamo riascoltare un'altra scenetta trasmessa dal programma che non piace, lo Zoo di 105. Parlando di telenovelas, ce n'è una in particolare a cui ci siamo affezionati, che è Rosalinda. Rosalinda, questa ragazza che puzza tantissimo, si innamora di quest'uomo che sembra povero ma in realtà si scopre essere ricco, e da lì nascono tutte le delle situazioni. Questa è talmente bella, l'ho tagliata in due, ragazzi, faceva troppo ridere, cioè non ce l'ho fatta, ho dovuto, è divisa in due. Dei deficienti siamo, andiamo, vai vai vai vai. Mannaggia la miseria. 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia. Arriva la telenovela che ha fatto impazzire il mondo. Quando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Rosalinda. Porcata Rosalinda. Rosalinda, hai amore, amore. Trame senza senso, sì. Amori impossibili, rinfacci, sì. Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida. Hola. Tutto questo è Hola. Rosalinda. Hola. Rosalinda. Hola. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda. Rosalinda. Rosalinda. Sì. Con una chica come tu. Oh! Oh! Oh! Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino. Oh, Gonzago, che bello! Oggi devo portare i fiori al ristorante del signor Romero. Questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste. Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro. È un cadavere lei. Oh. I nomi alcanzano tutta la vita. Oh, non importa, Gonzago. Tanto quello è andato in cancrena l'anno scorso. Ma non mi interessa. Ora che ho trovato l'amore, che altro può servirmi? Una fornitura vita di sapone, una doccia di candeggina, un clistere di insetticida, due albrimacic legati ai peli delle ascelle, un esorcista. Oh, quanto sei carino e premuroso, Gonzago. Sempre a preoccuparti per me. No, io mi preoccupo per me. A starti vicino mi è venuta un'infezione di gorgonzola ai polmoni. Rosalinda, hai amore. Gorgonzola. La mia vita sarebbe perfetta. Ho un caro amico al mio fianco. Ho trovato l'amore della mia vita. Ma c'è solo un problema. E tutta la parte sinistra del tuo corpo è in avanzato stato di decomposizione. No, il mio problema è che sono già sposata. Ah, davvero? E chi è l'asfissiato? Ma lo sai benissimo, è Alex. Ah, quello in coma. Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio. Dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio. Madonna, la fogna sta qui. È una sofferenza fare questa. La mia scaleggia, aspetta. Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alla sua sofferenza semplicemente togliendoti le scarpe. Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena. Dopo che mi è venuta la lebbra feticista, la pelle si è completamente cicatrizzata con il cuoio. E poi non potrei mai uccidere Alex. Gli devo troppo. È stato lui a farmi uscire dall'ospedale psichiatrico. Dicevano che ero puzza, puzza da legare. Ma io non sono puzza. O meglio, sì, sono puzza. Sono puzza d'amore per il bel Fernando. Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di Rosalinda. Rosalinda, hai amore. Intanto noi ridiamo delle disgrazie dei messicani. Intanto in Messico hanno legalizzato la cannabis, la marijuana. Hai visto? Se non lo fanno ad uso ricreativo. Dopo questa bellissima scenetta è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. Sono il duo più iconico e longevo del Festival di San Jimmy. Con le loro canzoni hanno sviscerato temi epocali come il trasloco, i supermercati, la raccolta differenziata e l'esodo vacanziero. Tornano sul palco della Ristrunza con una critica feroce ad un rito del nostro tempo. Di Bellini e Campari ascoltiamo adesso Crodino. Dirige il maestro Gene Fitz. Cantano i Depeche. La figa, il laureato, la commessa, l'avvocato, lo studente, l'influencer, stretti come chiappe in un dehors. bevono martini tra i seduti ai tavolini, fra spuntini e stuzzichini e goccioline con l'urina. Labbra in silicone, fanno selfie con l'iPhone. Quando arrivo sul bancone c'è rimasto solo del couscous. Ma porco il demonio, mi han fottuto il pinsimonio, la focaccia e le pizzette, c'è soltanto un piatto di bulgur. Spiegatemi perché fate la coda al bar, a cosa serve l'happy hour, perché bevete senza avere sete e spritz, che cosa c'è di positivo? Sostitutivo, tenuto in posto esclusivo, aperitivo, consecutivo. Ed io mi sento un cretino perché in sto casino volevo solo un crodino. Volevo solo un crodino. Super raffinato, tutto ultra ricercato. L'avventore non si duole perché vuole il guacamole. Alle elementari ci hanno detto che il marciume che ricopre il suolo è l'humus. Ora scopro che è una salsa. Perché vi esalta avere un cosmopolitan? Non fa ruttare il prosecchino. Propendo per la scelta più analcolica, perché così non mi avvelena. Ghiaccio con del colorante. Se volete votare questa canzone, andate su zoo.105.net. E adesso vi facciamo riascoltare un'altra scenetta trasmessa dal programma che non piace, lo Zoo di 105. Colleghiamoci con 105 Strap, andiamo, vai. Sono fissato. Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Bojo Vileda e Fausto D. 105 nella Milano City Gang torna 105 Strap. Io sono Moco Vileda e con me alla console c'è Fausto D. Ciao Moco, senti, ho imparato a fermare i dischi lanciandomi sulla console. Ciao. Questa volta sei cringe Fausto, con me al microfono, ma ora spalmata sul divano c'è Biba Cisti. Va bene Biba, stanotte ci siamo fatti insieme 8, 4 e 20, you dig? Fausto, ho sognato che ci seguiva la pula. Non hai sognato Biba, la pula ci inseguiva veramente, hai sel collo, you dig? 4L, Fausto, 4L. Escalay! Questa ora di 105 Stramp. Andremo a sentire le novità trap di questi giorni. Come avete potuto vedere in TV, a Sanremo ha vinto la trap con i Maneskin, il grande trapper metropolitano di Milano Sud. You dig, Marco, you dig. Anche io ho visto Sanremo, mi sarei fatto tantissimo con la signora anziana con i capelli rossi. Schiaccia. Immagina che odore di chiuso sotto quella gonna. Mamma. Grande Pimp e Orietta. E adesso allora cosa ascoltiamo oggi, Biba? Sai dirmi qualcosa? Ma come? Che cazzo ne so? C'ho voglia di gang. E allora Fausto, cosa abbiamo sul piatto? Abbiamo il nuovo di Max il Nano. Oh, comunque una lurcata sotto la gonna gliel'avrei fatta quella, you dig? Drip Fausto, drip. Max il Nano è uno che mena pesante nella scena trap barese. Allora sentiamolo subito qua. Lo portiamo dal sud al nord della Milano City Gang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sono di Bari e non di Peri. Nah, sono di Bari e non di Peri. Io sono da Bari e non di Peri. Eh no, non si sente. Io sono di Bari e non di Peri. Sto troppo forte. Nato che la guerra anga. Guarda c'è stile. Vieni che te ne do un po' sì però. Vai vina mao. Ok, ok, basta scherzare. Occhio, che anche sulla strumentale 50 te lo capotto. Dai dimmi di più, nella gang ci sei tu. È il tuo braccio destro che è Winnie the Pooh. Sono bravino a fare il rap, posso rifare break a neck. Togliere basta rhymes, mettere neck a Sanremo. Saremo i nuovi take that. Ma i vecchi the bar vecchi mi direbbero affangulamente. Capi della drill, capi della trap. Capi di qui, capi di là, si tutte cap da cazzo. Anche quest'anno è l'anno che ti prendi tutto. Ma mi sa che anche quest'anno ti va in culo senza sputo. Faccio due rime giusto per restare attivo. Aspetta con me. Schere, bro, schere, così che si lecca la figa. Questa è pure violenza musicale nella Milano City Gang. Amen, moco. Cosa ne pensi dei nani della trap? Cioè, i nani sono pimp. Ehi, Marco, guarda che al trap telefono abbiamo DJ Reverse, YouTube! Eschere, boom! Sentiamolo subito! Ciao, DJ Reverse, come stai? Grande, grande Reverse! Dai, ti do adesso in mano il programma, chiudilo tu perché mi mancavi, secondo me tu sei uno che spacca nella scena. Ok, vai! Marco, non capisco! Cosa dice sto qua? Ma come fai a non capirlo, Fausto? Ha detto di mandare pure la sigla! No, Moco. Ha detto che sei un grande figlio di puttana. Dopo questa bellissima scenetta, è arrivato il momento di riascoltare una delle 10 canzoni in gara. Festival di San Jimmy 2021. Categoria Big. È il re della sderenata telefonica, il menestrello della fellazio trasformata in poesia, il rapsodo del lupiccion de mammeta, eppure desorreta. Arrivano a San Jimmy con una canzone mediocre che serve per lanciare una canzone bellissima che uscirà tra poco. Di Trullo Cozza Trullo ascoltiamo adesso Avevo scritto un altro pezzo. Dirige il maestro Zizzed, canta Break. Poi quattro sono falsi canzone alla radio, rindo meglio programma che c'è sta. Vabbè, so quattro soldi, ma di sti tempi sicuramente meglio di un calcio in culo. E quello è poco ma è sicuro. Ma per San Jimmy è uscito un pezzo che è troppo potente, non vale la pena che lo faccio uscire in questo festival. Ma se volete vi racconto la storia, dove a mezzi vi spoilerò nell'altro pezzo che succederà. Filomena è una donna in carriera, sai scrivere sto pezzo. Ti ho letto in coppa LinkedIn che vanno cercando trader, trader finanziari a sentimento, che non siano studiati ma siano abili a giocare a poker come me, che ieri sera a PokerStar con 10 euro ne ho presi 880, ma sono stato dalle 2 alle 7 a giocare a società a casa del socio, che il giorno dopo dovevamo andare a fare un appuntamento importante. È stato di buon auspicio e la mia prossima canzone sarà Volete votare questa canzone e vedere anche il video? Andate su zoo.105.net. Ricordate che per votare la vostra preferita è necessario iscriversi nella sezione San Jimmy 2021. È stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da The Jekyll. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Don't know what I believe in, 'cause I just kept moving on. Said I should take a seat. I know where I came from. I got you love, loving me. cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105. Nel frattempo ci accontentiamo di Amazon Prime. www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali. Feasting Popeye, culo antiruggine per braccio di ferro, 98 euro. No, chi lo vuole? Cosa vostra, articoli per mafiosi generosi, vari euro. Cosa vostra? Rulotto di merda per macchina del fango, 14.000 euro. Utilissimo mini pimer Nunchaku, 87 euro. Tavolo Fukushima con 5 gambe e un orecchio, 128 euro. Abbigliamento, scarpe e gioielli. Pantaloni con risvolto psicologico, 69 euro al paio. Siringa negazionista, senza ago, 60 centesimi al pezzo. Scafandro effetto nude look, 1400 euro. Sassofono. Che cazzo, sassofono subacqueo. Vaffanculo. Okay. Sassofono subacqueo, fino a 3 atmosfere, 334 euro. Il mio primo hashish, gioco da tavola, vaffanculo. Il mio primo hashish, gioco in scatola da 3 a 6 mesi di detenzione, 5 euro al grammo. Giochi e prima infanzia. Sciacquone tantrico, che scarica per 6 ore senza fermarsi, 912 euro. Ci ha cagato anche Sting. Sì, tantrico. Bidello USB per didattica a distanza più realistica, gratis. Fai infilare. Fodero a crisalide per coltello a farfalla, 9 euro. Coerente, coerente. Polvere antipulito, 26 euro, cioè? Al chilo. Anti. Poltrona Maneskin che urla cazzo porca puttana ogni volta che ti siedi, 657 euro. Arredamento interni. Infarto al caramello per cuore di panna, 2,50 euro al letto. Come fai a comprarlo? Walk of Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con pentito di mafia, kit composto da 4 sacchi di cemento, 89 euro al sacco. Cartavetro di Murano, 866 euro al rotolo. È dispendiosissima. Pala per pizza più piccone per focaccia, 94 euro. Wonder Uomo. Che cazzo è Wonder Uomo? All'ultimo. Wonder Uomo fa riderissimo. Perché me lo immagino con le mutandine. Le mutandine col coglione che la frusta, fuori. Sì, sì. Quello, come quando si spiace che ti urlano palla e non vedi nessuno che gioca. Wonder Uomo, action figure trans con pene retrattile a batteria, 122 euro. www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Che puntata ricca che è stata, vero? Vi abbiamo fatto riascoltare sia le scenette più belle che le 10 canzoni dei Big di San Jimmy. Per andare a votare la vostra preferita e per vedere anche i video tipo quello meraviglioso di Pippo Palmieri intitolato Pompa, dovete andare su zoo.105.net, registrarvi e cliccare sul pulsante Pompa. Scusate, sul pulsante Vota. Che vinca il migliore. A lunedì. Welcome to the-